Ed eccoci ritrovati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi tutti i giovedì. Come già detto e ricordato a tutti e tutte, ci troviamo con il nostro nuovo, prossimo, ulteriore, non so cos'altro dire, ospite, Matteo Contin, che riascoltiamo e risentiamo con piacere parlare di questo progetto, a questo punto, che è Materia de Genere, che si trova, insomma, che è uscito per la terza volta, infatti è il terzo volume, e di cui parliamo con lui per la seconda volta, perché Matteo è stato curatore anche del secondo volume, che ci tengo a ricordare, è stato dedicato all'immaginario di Tuono Pettinato, di cui troviamo anche una citazione all'inizio del libro, Bisogna restare spavaldi senza mai perdere la timidezza. E raccontaci appunto, Matteo, questo progetto di Materia di Genere al volo per ricordare un po' a tutti e tutte di cosa si parla e introdurci questo nuovo volume che invece è dedicato al mondo di Bacilieri. Ciao a tutti, buonasera. E, sì, insomma, ogni 2 anni torniamo sul luogo del misfatto. Materia de Genere è un antologico con 5 storie brevi a fumetti, realizzate da 5 autrici emergenti che mettiamo a osservare, studiare, criticare, derubare, svuotare, cioè insomma gli facciamo fare quello che vogliono con l'immaginario di un fumettista o di una fumettista, diciamo famoso. Uso questa parola per brevità, ecco. Quindi, come dire, un autore importante che viene un po' sballottato da 5 autrici esordienti o quasi. Appunto, il terzo volume, insomma, Paolo Bacilieri, come ha scritto anche lui in copertina, subisce il trattamento di materia di Anche se genere. poi si corregge, perché nella copertina poi è sbarrato e mo' Sì, presente. si corregge perché comunque è una persona così, elegante e quindi, Educata. esatto, gli è scappato, ma poi si è corretto subito. E quindi appunto queste 5 autrici si mettono a guardare il lavoro di Bacilieri, e guardando il lavoro di Bacilieri inevitabilmente si guarda anche alla città di Milano. Il progetto nasce questo, diciamo, questo terzo volume rispetto agli altri due che non avevano, come dire, coordinate geografiche precise. Questo volume nasce un po' milanocentrico, nel senso che mi piaceva l'idea di raccontare la città attraverso lo sguardo di 5 autrici, che o sono di Milano o hanno vissuto a Milano o vivono a Milano e che, come dire, potessero raccontare degli angoli diversi rispetto a quelli che Bacilieri racconta, nei suoi fumetti. E ricordiamo il nome di queste autrici: Giulia Ratti, Margherita Morotti, personalmente molto amata da me, molto interessante questa notizia, vabbè, Claudia Bumbica, Giorgia Rachel Donnal e Maria Giulia Chistolini. Iniziamo con la copertina. Questa copertina è stata disegnata da Bacilieri, come oltretutto poi l'inizio di ogni capitolo, di ogni storia di ogni autrice, cosa che non è successa invece con Materia de Genere 2, perché comunque c'è stata appunto la dedica di Percy Bertolini. Come vi siete trovati? Ovviamente questa copertina, come dicevi tu, rappresenta anche una delle caratteristiche di Bacilieri, a parte l'eleganza nel tratto, l'assoluta cura nel dettaglio e questa grande presenza della struttura, dell'architettura, proprio dell'ambiente urbano, ma nella sua essenza, con poi tutta la presenza umana, perché c'è sempre e non sempre, però, la compresenza di piccole figure e grandi palazzi, anche se poi Bacilieri si è espresso anche in modalità formali ed espressive riconoscibili, ma anche lì diverse, cioè ha comunque sperimentato. Come vi siete mossi anche nella decisione della copertina e della selezione delle storie? Cioè, come poi ogni autrice si è relazionata a quest'autore. Sì, allora, rispetto al volume 2 e al volume 1 con Marco Galli, ricordiamolo, che partivano da soggetti scritti dai due autori, questo terzo volume non ha soggetti proposti da Bacciglieri, nel senso che abbiamo fatto un lavoro diverso, questo perché ogni tanto è bello cambiare, ecco. Quindi invece che farci raccontare delle storie da Bacciglieri che poi le autrici avrebbero rielaborato, abbiamo preferito partire proprio dall'immaginario. Scusa? L'effetto sorpresa, dico, che immagino Sì. anche per lui sarà stato importante. Assolutamente, tant'è che Bacciglieri il libro lo ha letto, lo ha visto quando è uscito. Ah, ok. Cioè, con lui ho condiviso, come dire, le autrici a cui avevo pensato, e quindi gli ho raccontato un po' chi erano, però le storie non le ha assolutamente viste. Le ha viste proprio a libro finito, quindi insomma, dicono che stia bene, ecco, Sì, nel senso esatto. non gli è venuto il coccolone, ecco, quindi almeno quello. No, appunto, dicevo, siamo partiti proprio a fare un ragionamento sul suo immaginario. Quindi, diciamo, ho più o meno assegnato un libro di Bacciglieri per ognuna delle autrici, che poteva già avere delle connessioni con il loro lavoro, chiaramente. Quindi Giulia Ratti, ad esempio, che è una fumettista che lavora sempre sui corpi, anche diciamo a livello erotico, ma lavora tanto anche sugli oggetti, anche a livello erotico. Ondulati e luminosissimi. Esatto, ho affidato Palla di Bacciglieri, che è edito da Hollo Press, uno dei miei libri E anche preferiti. case editrici a cui siamo molto Esatto, affezionati. assolutamente. E quindi gli ho affidato quello perché poteva, come dire, incontrare il suo gusto. In realtà no, perché come sempre è bello con materia del genere avere questa libertà dove, insomma, le autrici sanno che non stanno facendo un omaggio a Bacciglieri o all'autore di turno. Ma lo stanno, insomma, guardando, e quindi possono permettersi di dire: però questa cosa non mi piace, di Bacciglieri. E quindi, insomma, appunto, abbiamo affidato a diverse autrici, a tutte le autrici, una storia o un libro di Bacciglieri, e siamo partiti da lì per poi sviluppare autonomamente una storia attorno alle suggestioni che partivano dal libro. Ho capito. C'è questo, oltretutto, ricordo il fatto che materia di genere, come anche altri progetti, era possibile prenderli in pre-order. Infatti, a chi l'ha fatto è arrivato anche un piccolo regalo che inserito all'interno del volume, che in realtà è anche raffigurato nel quarto di copertina, che è un ragno. Bacciglieri ha disegnato un bel ragno. Non so se è il primo ragno che disegna nel nonno, non è vero, però diciamo Secondo me sì, l'elemento. secondo me sì, e ci ha stupito molto in realtà la scelta del ragno, Sì, nel senso che bellissimo. inizialmente la copertina sarebbe dovuta essere, come tutte le copertine di materia del genere, diciamo, distribuita su tutto, insomma, copertina quarta, dorso, e abbiamo immaginato appunto uno scorcio milanese, ecco. E a un certo punto lui ci propone questo ragno, una cosa che ci è piaciuta molto, anche se abbiamo scoperto che l'aracnofobia è vera, cioè c'è davvero gente che ha molta paura dei ragni, e solo vedere la quarta di copertina o la stampa era un po' un problema. E quindi sì, tanti spaventati un po', ecco. Però sì, insomma, siamo rimasti contenti di questo ragno bacilleriano, ecco. Molto molto bello. E la cosa anche molto interessante, per questo dicevo, la reazione di Bacciglieri, poi ovviamente non è detto che ci si aspetti un continuum, cioè come le persone quando i cantanti che ricantano fanno le cover, non è detto che, a parte che non si tratta di cover, però quando si reinterpreta, si rilegge, si dà un altro sguardo, però mantenendo quell'essenza, è qualcosa ovviamente che aggiunge, e quindi non è detto che Bacigliari si aspettasse qualcosa assolutamente coerente con il suo segno, perché qui si invece è un'esplosione di tutt'altro. Ovviamente io non sono milanese e la città la conosco per frequentazioni randomiche per vari motivi, ma quindi non posso sentire elementi fortemente, ecco, elementi identitari, ma sicuramente riconosco cose magari più banali come l'S lunga o ovviamente altre magari dinamiche, ma per quanto riguarda i tratti, i segni, le storie sono completamente diversissime e apparentemente lontane da quello che è l'autore di riferimento, e questo è estremamente interessante. Sono autrici anch'esse da conoscere. La Morotti comunque si lega comunque, perché ci sono poi degli elementi che ritornano, come appunto Sozzas, che viene ripreso in modo differente. Poi non so se queste cose sono state volute, sono state casuali, però No, c'è come assolutamente se fosse poi casuali. cioè un filo conduttore, però schizzato, cioè che appunto formalmente sembrerebbe andare in direzioni completamente differenti. Però è molto affascinante. Infatti, la cosa bella di questa uscita, non so, appunto, di questa antologia, oltre al fatto che dici, oddio, è il mio autore, una mia autrice che mi piace, chissà come avranno rappresentato, che parte avranno rielaborato. È proprio questo, perché poi ci sono nomi emergenti, più o meno emergenti, che disegnano, che danno vita, appunto, come dicevamo, a autori più classici, cioè insomma più emersi che emergenti. Esatto, emersi, giusto. Però è fantastico perché appunto si passa dalla gommosità, dalla luminosità del primo racconto, a invece l'espressionismo, la durezza, il riempimento di spazio totale, l'abnormità dei racconti successivi. Ci puoi raccontare, insomma, velocemente, anche per insomma far capire alle persone che ci ascoltano che cosa potrebbero avere tra le mani e cosa leggere? Sì, allora, come hai detto tu, fumetti tutti diversissimi tra loro. Questa è una cosa che ricerco molto con materia di genere. In generale, anche da lettore nelle antologie, preferisco le antologie diciamo, non con un segno comune. Mi piace vedere cose diverse, anche stridenti tra loro, ecco. Si parte con il primo racconto, che è quello di Giulia Ratti. Si intitola Ultra Fragola come lo specchio di Ettore Sozzas, il designer architetto milanese. È la storia d'amore tra un uomo, il solito colletto bianco milanese, quindi insomma che cioè, la storia ha anche un bel focus di vita d'ufficio, ecco, appunto tra quest'uomo e lo specchio di Sozzas che lui acquista e di cui a un certo punto si innamora perdutamente. Che non si Non è innamora la di più. solita storia. Non Scusa? No, è la solita storia, scusa, vai, vai. non è la solita storia di un uomo che si innamora di uno specchio, ma in realtà si innamora di se stesso. È l'esatto contrario, perché lui a un certo punto si specchia e smette di vedere se stesso e vede lo specchio e lì si innamora. È una storia molto, come dicevi tu, gommosa, molto influenzata dall'estetica manga, hentai, pur avendo in realtà poi un tratto molto occidentale, però nella colorazione molto materica di Giulia c'è quella cosa lì e niente, questa è la prima. Poi si prosegue con Maria Giulia Chistolini, questo è una sorta di mystery ambientato in un appartamento. C'è un mistero legato a una torta, a una marmellata che non si trova mai. È un fumetto molto bizzarro, con dei dialoghi però molto, come dire, normali, quotidiani, ma divertenti. E consiglio per chi leggerà l'antologia di leggerlo attraverso i disegni, perché si scoprono più cose rispetto a leggerlo attraverso le parole. Ecco, mettiamola così. Lì ci sono un po' di segreti dentro il disegno, ecco, si scopre un po' di più. Poi si prosegue con Giorgia Rachel Donnan, grafite pazza, nel senso che sono splash page con personaggi giganteschi che ingombrano tutta la pagina. Tra l'altro, nota, i disegni originali sono tutti in A3, quindi immaginate come Grazie. sì. Gigante, anche lì è la storia che sembra in realtà più lontana da Bacciglieri. Racconta sostanzialmente la notte di questo personaggio che corre per Milano e fa di tutto, ruba, ammazza, fa l'amore, Ci va a sono ballare. delle bellissime targhe in questa storia. Targhe Sì, di sono macchina. esatto. Infatti, una delle cose di cui vado fiero sono di questa antologia sono la presenza dei supermercati. Che ce ne sono tre, credo, tre scene in un supermercato, in tre fumetti diversi, chiaramente. E diciamo, la questione legata alle targhe ce ne sono, credo, altre Eh due. sì, un'altra me la ricordo. Esatto. E quindi quella di Giorgia sembra la storia più lontana dall'immaginario di Bacciglieri. In realtà, se sfogliate, ad esempio, Dura Sagra, che è un suo fumetto molto vecchio, uno dei primi che ha fatto, vedrete questi personaggi michelangeleschi seduti nei paesaggi veneziani, che è la cosa che in maniera diversa, perché lo fa con un tratto, con uno stile più grottesco, però. Diciamo, a più a gamba tesa, cioè Eh sì, bella carica, cioè entra proprio a gamba certo. tesa rispetto, cioè non lascia Più punk, infatti però è ci sta. molto bella. Poi ritorna Sozzas con la storia di Margherita Morotti, che è un esperimento un po' pazzo di fare una biografia di un personaggio come Sozzas che ha fatto nella vita tutto, cioè letteralmente qualsiasi cosa e ha incontrato letteralmente chiunque, e di ridurre la sua vita in 30 pagine, sostanzialmente. Selezionando chiaramente degli episodi chiave che però abbiano anche una loro unità, pur essendo distribuiti nel tempo. L'inizio di questo racconto, cioè della lavorazione di questo libro, cioè di questo fumetto, è strana perché Margherita non aveva intenzione di fare una biografia di Sozzas, eravamo partiti con un'altra cosa. Sozzas spunta a un certo punto nel suo soggetto. Le dico come mai proprio lui era l'unico personaggio famoso e mi dice: ho letto il libro, mi piaceva, l'ho messo dentro, ho letto la sua biografia. Ho detto: ma magari, cioè, se ti garba, facciamo una bio di Sozzas. E appunto abbiamo lavorato in questa direzione, scoprendo che però Sozzas odiava Milano. E quindi in realtà questo è tutto un fumetto dove Sozzas esprime il suo odio verso la città. Però lo fa, insomma, molto bene, ecco. Quindi ci sono vari episodi, tra cui uno bellissimo in cui Elio Fiorucci dà dell'LSD a Sozzas. No, Vero, episodio vero. e poi Margherita, penso anche perché viene comunque è un'illustratrice, ha una capacità di sintesi e di comunicazione molto forte, quindi quello che dici tu, no? Condensare in 30 pagine, ma lo fa con sa estrema sapienza e con una resa assolutamente valida, insomma. Sì, con un lavoro sul lettering molto interessante che recupera anche il lavoro sul lettering di Bacciglieri, ecco. L'ultima storia è di Claudia Bumbica, diciamo che prende la parte enigmistica di Bacciglieri e anche un po' la parte erotica. È un fumetto che è una rivista, nel senso che le 30 pagine di questo fumetto sono una rivista di enigmistica con i giochi, le barzellette. E tutto quanto, però tutto quanto un po' storto, nel senso che i giochi non sempre tornano, le barzellette, insomma, criticano un po' il maschilismo dell'umorismo tipico di quei giornali. E poi ci sono a un certo punto dei flash con degli inserti proprio di fotografie di riviste porno degli anni Ottanta, e in tutto questo una voce narrante che compare in questi riquadri gialli, di cui scopriamo delle cose, dei flash relativi alla sua vita. Mi piace immaginarlo come il ascoltare una persona che in metropolitana sta leggendo questa rivista qui. Grazie. Sì, e quindi avrete capito che c'è molta ciccia al fuoco per varie ragioni, e quindi vi invitiamo a prendere questo, acquistare questo bellissimo volume, interessantissimo progetto che appunto, insomma, sono contenta che vada avanti perché è una interessantissima appunto idea e realizzata sempre con molta attenzione. Quindi grazie mille a Matteo per Grazie a essere voi, grazie a te. qui. Siamo stati molto contenti di averti avuto qui per parlare di questo volume. Ci dispiace non aver avuto e non aver fatto parlare le autrici, ma sono tante, il tempo è poco, sempre queste questioni, queste scuse, ma non sono scuse. Ringraziamo ovviamente anche loro per i disegni e le storie e spero di risentirci, insomma, presto. Prestissimo. Lo spero Grazie. anch'io e grazie di tutto. Buona serata. Ciao. A voi.